martedì. Ma che senso ha? È meglio il mercoledì, anzi il giovedì, che dopo viene il venerdì, e dopo viene il sabato, e poi la domenica. Beh, un bel testo. Comunque è un bel testo. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto anche da Drago. Oggi Kappa ti vedo bene, non hai mal di schiena. No, perché oggi non è lunedì. Appunto, volevo verificare che fosse vero quel che dicevi sul carapace del lunedì. È tutto vero, 100%. Bene, quindi tu il mal di schiena lo senti solo di lunedì. Sì, L4, L5, S1. Vuoi vedere? Metti giù i pantaloni, guarda bene. S1, non tirarti giù. S1 è la prima vertebra sacrale. Ma non devi farmela vedere, perché non è il caso. È lì, l'intero peso della settimana. Ma tanto oggi è martedì, quindi. Allora, non è che si tratta semplicemente di un sintomo psicosomatico. Vabbè, legato, vedi, a lunedì. Come vuoi, Drago, fa di sta. Oggi non ho mal di schiena. Evviva, chiedi cinto erniario, ritorna quindi a essere Chiedo Asilo a tutti gli effetti. Contando. Quanti cuori ci sono? Conta lì. 3. Benissimo. Ci sono 3 cuori. Quanti rettangoli ci sono? 4. Benissimo! Ci sono 4 cuori rettangoli. Quanti rettangoli ci sono? No. 4. Oh oh, prova ancora. Quanti quangoli ci sono? 3. Oh oh, prova ancora. Quanti oh oh ci sono? 1, 2, 3. 4 e 5. Questa è la risposta esatta. Ci sono 5. Oh oh. Sai, quando Mosè scese dalla montagna aveva con sé delle tavole su cui erano scritte le 10 leggi che il governo di tecnici dell'epoca varò per cercare di salvare il pianeta che era messo malissimo. Ecco, non rubare, non desiderare la donna d'altri. Vedi, tu conosci la versione ufficiale, quella che ti hanno sempre fatto passare per vera. No, io ho letto la Bibbia, Drago. Un boccalone, ma sì, ma la Bibbia è stata tradotta 1000 volte, ormai il senso originario si è perso. Ma cosa credi? Vabbè, tu non siamo ho capito. Nel 2012 dopo Cristo, cosa devo fare? Potresti indagare meglio su questi argomenti. Ma su cosa? Seri, sulle fonti della Bibbia. Impazzito, Drago, è materia da specialisti. Mica ci si improvvisa studiosi della Bibbia così. No, bisogna conoscere l'ebraico, il greco, il latino. Ma una volta forse. Adesso basta comprare un libro tipo il Codice da Vinci e impari più cose che in 10 anni di teologia all'università di Heidelberg, capito? Ma si sa, i libri complottisti. Esatto, in quei libri lì ci sono tutte le verità che il complotto globale giudaico-cristiano ha nascosto. Tipo che le tavole di Mosè non contenevano i 10 comandamenti che ci sono stati tramandati dalla tradizione, bensì le 10 regole per non far ingrassare i bambini. Ma cosa dici? Sì, ma lo dicono quelli del network genitori pediatri scuola. Chi? Ma smettila di stupirti così platealmente. Chi? No, informati chi? Meglio. Tu invece fai tutti sti network, giri solo perché vuoi fare un'altra puntata della tua rubricaccia Sei grassa. Anzi, la rubricaccia Sei grassa. Beh, grassa però non è asmatica. No, insomma, ma questo dai. Era il grasso che comunque dai, sei grassa, dai. Sempre sì, un certo effetto però partire dalla Bibbia, no? Per parlare di sei grassa, vedi tu. Bello effetto. Io ho perso il filo mezz'ora fa, Drago. Quindi l'effetto è sbagliato. Vabbè, allora riassumiamo velocemente. Sembra che le 10 regole per evitare l'obesità infantile che il suddetto network genitori pediatri scuola ha compilato fossero in realtà già state consegnate da Dio in persona a Mosè. E quindi adesso scriverò un best seller sull'argomento. Ecco. Perché io mi sembra... te lo auguro, anche se scrivere un best seller è impossibile, perché i libri diventano best seller solo dopo che sono usciti. Quindi in fase di scrittura uno al massimo può sperare di star scrivendo un best seller. Però con certi argomenti K si va sul sicuro. Dio, Mosè, i complotti, i templari, i massoni, Giuda Iscariota, il sadomaso per signorine. Ecco, è lì che ti sono voglio. Argomenti che bastano da soli ad assicurare il best seller. Sì, però il sadomaso per signorine con Dio e Mosè non so come lo metti, capito? Però tutte e due hanno a che fare col best seller, quindi uno vabbè, può ma le 10 regole per evitare l'obesità infantile quali sono? Ma chi se le ricorda? Drago, tu hai il dono di saper descrivere l'indescrivibile. Solo i bambini pestano i piedi. strillano per rifiutare la realtà e dicono che è colpa della strega. Agli adulti non è consentito. Stop your feet! Timbro. Cos'è? Timbro. I timbri, quelli proprio quelli. Bisogna mettere tampone. I timbri, guarda, sì. Che in Italia se non metti un timbro succede. Sì, sì, è vero. L'Italia è un paese ammalato di burocrazia, si sa. E quindi ho timbri... dovuto interrompere una riunione importantissima perché dalla SIAE mi hanno chiamato che su un documento mancava il timbro. Ho dovuto prendere, mollare tutto, andare alla SIAE, mettere il timbro. Sennò si bloccava tutta una procedura che non sto a spiegarti. Ma, che mancava, vabbè, guarda, timbro. Che in assenza di timbro, timbro, basta scrivere in stampatello, leggibile, chiaro, il nome della società. Come se quello fosse che credevo timbro. Anch'io, timbro. No. Quelli della SIAE sono molto fiscali, hanno voluto il timbro. Beh, io mi ricordo che a militare, per certi documenti, ci voleva il timbro tondo. Timbro. Che era, se non sbaglio, il timbro della Repubblica Italiana. Ma quello è un timbro importante, certo. Mica come il mio. Importantissimo, timbro. Pensa che stava legato a una catenella nella palazzina comando o palazzina comandi, non ricordo più. E c'era un soldato addetto al timbro tondo. Stava lì tutto il giorno a far la guardia al timbro tondo. E quindi c'era tutta una mitologia legata a... Il timbro tondo! Tenente Drago! Presto! Cosa? Prenda il timbro tondo! Non posso, perché c'è la guardia che lo sta costruendo. Custodendo. Ecco, perché di timbri tondi ce n'è solo uno. Tutti gli altri timbri presenti in Italia sono solo un modo veloce per scrivere i dati di un'azienda, no? Infatti per quello Radio 24 Quindi non capisco tutta questa roba del timbro della SIAE. La SIAE si rifiuta di prendere in carico un documento solo perché manca il mio timbro. Il tuo timbro. Ma scusa, gli ha detto qualcuno alla SIAE che non stiamo parlando del... Sì, siamo in Italia, K, e la crisi e tutto quanto. Perché stanno facendo male, soprattutto qui in Italia, secondo te? Per colpa del timbro tondo. Per colpa dei timbri in generale. Basta coi timbri. Lasciateci liberi di vivere una vita senza timbri. Sai che hai un timbro di voce un po' fastidioso? It's me, Mario. Giocare. Su, su. Giù, giù, giù. Crescere. Forza. Tassa. Pagare. Tassa. Pagare. Di più. Forza. Su, su. Contrario. Sotto. Giù. Avanti. Pagare. Di più. Tassa. Pagare. Forza. Tassa, tassa, tasse, pagare, pagare, pagare, pagare, pagare. Crisi di sistema, crisi di sistema. Pieno asilo! Ah, eccolo. Aspetta che... Sì, ciao, sì, anch'io. Ciao, anch'io. Sto parlando con Lupo, tra il Lupo del martedì. Lo so, devi prendere le pastiglie. Ma dice sempre, ma come le pastiglie? No, stai calzare, no? Le pastiglie. Le pastiglie, ti fanno bene, ecco. Ecco, sì, ma dice, sì, ma fa sempre lo stesso com'è? Ma sei tu che non capisci il linguaggio dei lupi. Lui è lì da solo, rischia l'estinzione, c'ha mal di pancia, estate. Insomma, cerca di capire. Lo so, anch'io ti voglio bene.